Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti anche oggi insieme. Sono molto contenta e come ogni giorno cercheremo di raccogliere dai nostri esperti idee, spunti, suggerimenti per vivere la nostra quotidianità in modo consapevole e per prepararci ad affrontare la ripresa adeguatamente attrezzati. Ci raggiungerà tra poco anche Daniel Lumera, scrittore ed esperto nelle scienze del benessere e della qualità della vita, riferimento internazionale per la meditazione, con cui parleremo di due strumenti che abbiamo tutti a portata di mano, anzi direi di cuore e di cervello: la musica e il silenzio. Ci sono delle ricerche molto interessanti di cui parleremo. Nel frattempo 349-238-6666, se volete scriverci quanto e come la musica e il silenzio vi hanno aiutato e supportato in questo periodo di isolamento. Ma prima lasciatemi dare il bentornato al professor Arnaldo Caruso, che è virologo ed è presidente della Società Italiana di Virologia, che è già in linea con noi. Professore, buongiorno, grazie. Buongiorno, buongiorno. Professor Caruso, ci sono degli strumenti, dicevamo, che ciascuno di noi può utilizzare per prepararsi anche a livello psico-emotivo alla ripresa, e ci sono altri strumenti che verranno utilizzati per garantire nella fase 2 la salute pubblica, e individuando quindi precocemente e tempestivamente eventuali focolai, così da evitare una seconda ondata. E sono i test diagnostici, ne sentiamo parlare ogni giorno. Ma professor Caruso, l'obiettivo è di individuare chi ha avuto la malattia, è guarito e ha sviluppato una sorta di immunità, o invece intercettare i positivi prima che alimentino il contagio? Dunque, la priorità è intercettare i positivi per evitare che alimentino il contagio, quindi se resta soltanto disponibile l'opzione tampone, perché ci dà uno spaccato in quel momento della potenziale infettività del soggetto, quindi se il virus è presente nel tratto superiore respiratorio, quindi nel cavo orale, e le goccioline di saliva che questo emette potrebbero contenere virus e quindi essere contagiosi. E per quanto riguarda invece gli anticorpi, ci danno la certezza che un soggetto ha avuto l'infezione, è guarito, e quindi come tale questo dal punto di vista epidemiologico è interessante, perché ci dice quanto il virus ha circolato nella popolazione e quanti di noi in qualche modo hanno superato l'infezione facendo un'immunità specifica. Ecco, immunità, professore, che è quella condizione in cui il nostro organismo sviluppa degli anticorpi, delle difese nei confronti del virus con cui è venuto a contatto. Ma professor Caruso, quanto ci vuole perché questo si verifichi? Dunque, l'immunità verso un virus è qualcosa di molto più complesso di quello che pensiamo. Quando parliamo di anticorpi vediamo solo una parte dell'immunità, che invece è anche fatta non solo da sostanze che vanno a legare il virus sulla sua superficie e impediscono che questo attacchi delle cellule, si attacchi alle cellule bersaglio infettandole, ma c'è una seconda immunità molto più importante in questo caso, che va a individuare i serbatoi che sono infetti nel nostro corpo, le nostre cellule che producono questo virus e lo rilasciano in continuazione. Sono dei veri e propri eserciti di cellule che vedono la cellula infetta e la uccidono proprio sparandole addosso dei proiettili, si chiamano banalmente perforine, ce ne sono di tanti tipi anche di altro nome. Quindi le due immunità sono entrambe importantissime per eradicare l'infezione. Una eradica il serbatoio uccidendo le cellule che stanno producendo virus perché infette, gli altri, gli anticorpi, legando le particelle virali che vengono emesse da queste cellule, impediscono che queste che questo virus si attacchi a nuove cellule, faccia nuovi serbatoi. Quindi tutte e due sono importantissime. Ovviamente questo è banale per i nostri spettatori, però quanto tempo ci vuole? L'anticorpo più o meno 10-12 giorni iniziano a comparire difese specifiche che possiamo evidenziare con dei test oggi disponibili. La parte cellulare, cellulomediata si chiama, non è ancora disponibile, è più difficile da studiare. Beh, è un meccanismo straordinario, una sorta di gioco di squadra, professor Caruso. È una grande orchestra che tutte insieme. Una grande orchestra. Sì, che tutti insieme deve suonare all'unisono per fare qualcosa che ha un significato: togliere un'infezione dal nostro corpo, eradicare proprio l'infezione, eliminare il virus. Professore, ma quanto dura questa immunità? Al momento sembra che questa sia una domanda a cui non siete ancora in grado di rispondere, ma perché non conoscete ancora bene il virus o perché ogni virus è differente? Ogni virus è differente. Ci sono virus che sono detti nudi, cioè sono tal quali, come natura li ha creati. E quindi noi vediamo facilmente questi virus, la nostra immunità è molto più potente perché è qualcosa che è completamente fuori dal nostro organismo, quindi un'estraneità che è facilmente riconoscibile dal nostro sistema immunitario. Mentre invece ci sono virus detti con involucro, come questo coronavirus, che si mettono addosso un mantello, una specie di mantello mimetico, per sfuggire proprio all'immunità. E a seconda della complessità di questo mantello, noi vediamo più o meno bene i virus, le loro proteine, e facciamo anticorpi. Quindi quanto questi anticorpi sono potenti e durano dipende dalla forza con cui riusciamo a scoprire questi antigeni e a combatterli. Quindi questo virus è certamente più difficile da scoprire di un virus nudo, come ad esempio il virus della poliomielite, per fare un esempio banale. È necessario poi sapere quanto questa forza anticorpale durerà nel tempo. Ci sono virus, e questo dipende molto dalla tipologia di virus, ci sono virus che danno un'immunità per sempre, veda il virus nel morbillo, e poi ci sono virus più deboli, cioè verso i quali c'è una risposta molto più debole, che potrebbe essere anche questa qui contro il coronavirus. Però ci vorrà tempo per stabilire se questa immunità sarà duratura, sarà ugualmente protettiva nel tempo o meno. Quindi ancora è troppo presto per poterlo dire. Professore, certo che i virus ci fanno paura, ma raccontati da lei sembra cioè un mondo molto interessante. Professore, vorrei farle anche un'altra domanda riguardo ancora a un tempo, perché ci sono persone che dopo aver fatto la malattia risultano al tampone negative in breve tempo, altre per le quali devono passare giorni, addirittura settimane. Come mai? Quella famosa immunità cellulomediata, cioè quella possibilità di eradicare l'infezione subito in maniera efficace, quel gioco di squadra che si diceva prima tra anticorpi e cellule che combattono i serbatoi che producono il virus. Se questo non funziona bene, certamente avremo dei difetti nell'eliminare il virus in breve tempo. Quindi un soggetto che è più debole dal punto di vista immunitario e non ha questa orchestrazione perfetta fra i due sistemi, o ce l'ha più debole in generale, eliminerà virus più a lungo che non un soggetto normale con una buona immunità che ha contribuito a eradicare immediatamente in poco tempo il virus. Professore, guardiamo al prossimo futuro. Si dice che i virus tornino, ma in autunno, secondo lei, potremmo sperare di essere protetti? Oppure potrebbe succedere un po' come succede con l'influenza ogni anno, e quindi che arrivi una variante del Covid? Guardi, se pensiamo al coronavirus, sono dei virus mutevoli, altamente mutevoli, quindi già è una fortuna che questo virus ancora ad oggi si sia mantenuto abbastanza ben conservato, il ceppo cinese da quello italiano, da quello americano. Al momento non ci sono grandi differenze, il che lascia sperare nella possibilità di un vaccino che sia efficace. Però purtroppo, siccome sono virus che mutano, e lo sappiamo anche da altri virus della stessa famiglia, un po' come il virus per l'influenza, dovremmo aspettarci delle variazioni. Però qualcosa è avere già una buona base di partenza e quindi avere già un'immunità di base che possa in qualche modo anche tamponare delle piccole mutazioni. Invece, se dovesse essere mutazioni più importanti, allora ci troveremo di nuovo tutti scoperti. Quindi tornerà in autunno, speriamo non cambi, ma purtroppo lo scenario che ci si prospetta è un po' come quello dell'influenza. Dovremo fare dei vaccini via via, orchestrati in maniera tale da poter rispondere all'esigenza del ceppo circolante in quel momento. Professor Caruso, grazie per essere stato con noi e soprattutto per la sua chiarezza. Le auguro una buona giornata e anche mi auguro di sentirla presto, con buone notizie. Buona giornata. Di nuovo. Bene, e io adesso potrei dire musica maestro, ma anche facciamo silenzio. Nel dubbio prendo tempo e saluto Daniel Lumera, scrittore ed esperto nelle scienze del benessere e della qualità della vita, nonché riferimento internazionale sulla meditazione, che è tornato a trovarci. Daniel, ciao, grazie. Buongiorno Nicoletta, grazie a voi. Daniel, con te oggi parleremo di musica e di silenzio. La ricerca dimostra quello che in cuor suo ciascuno di noi sa bene, cioè che la musica, partiamo dalla musica, ha un ruolo molto importante nella nostra vita e per la nostra salute, riesce ad arrivare alle nostre emozioni, al nostro cuore, è un elemento di equilibrio straordinario, capace di interagire con emozioni, stati d'animo, li amplifica, li acquieta. Daniel, adesso noi ci fermiamo, ma la domanda te la faccio già prima di dare la linea alle informazioni sul traffico. Perché è così importante la musica, soprattutto in questo periodo? Intanto vi invito 349-238-6666, quanto e come e se la musica e il silenzio vi hanno aiutato in questi momenti, in questi giorni di isolamento. Torniamo tra pochissimo con Daniel Lumera. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Obiettivo salute. A Obiettivo salute insieme a voi è tornato Daniel Lumera, con cui stiamo parlando del potere terapeutico, stiamo per parlare del potere terapeutico della musica, ma anche del potere terapeutico del silenzio. Daniel, partiamo dalla musica. Perché è così importante, soprattutto in questi giorni? Allora, ci sono tanti studi interessanti che relazionano salute e musica. Ad esempio, quelli dell'Università McGill di Montreal che dimostrano come la musica possa cambiare la biochimica del nostro corpo. L'ascolto della musica influenza lo stato di salute del nostro corpo attraverso 4 vie principalmente: il piacere, lo stress, il sistema immunitario e infine l'aggregazione sociale. Ora, in questo periodo chiaramente manca il canale dell'aggregazione sociale, quantomeno quella fisica, però comunque queste 4 vie di azione della musica sono relazionate con le variazioni chimiche di ormoni, per esempio la dopamina, gli oppioidi, il cortisolo, quindi legati allo stress, la serotonina e l'ossitocina, quindi ormoni della felicità e dell'innamoramento, e può avere anche un'azione antinfiammatoria mediante ad esempio la regolazione del rilascio di citochina. Quindi le dinamiche neurochimiche studiate sono simili a quelle che proviamo con il cibo o con il sesso, perciò ascoltare musica in questo periodo è molto molto importante per il nostro equilibrio generale. Sì, ma adesso che abbiamo sentito cosa dice la ricerca, viene spontanea un'altra domanda: quale musica ascoltare, oltre che naturalmente quella che più ci piace? Qual è la musica che fa più bene? Esiste un genere che è migliore di altri in termini di salute ed equilibrio psicofisico? Allora, c'è uno studio molto interessante e divertente, anche tedesco, del 2016, che ha affrontato l'effetto di 3 diversi stili musicali. È come se noi in un concerto vedessimo Mozart, Strauss e poi gli ABBA. C'è questa fantastico, questa sfida, mamma mia! Questa sfida colossale. E hanno studiato come questi 3 stili musicali influenzano i livelli serici del cortisolo, la pressione del sangue e infine la frequenza cardiaca. Allora, i livelli di cortisolo sono diminuiti in tutti i gruppi, quindi ABBA, Mozart e Strauss, tutte e 3 riducono lo stress. Però la musica di Mozart, Strauss, ha abbassato notevolmente la pressione sanguigna, anche la frequenza cardiaca dei soggetti studiati. Quindi invece la musica degli ABBA no. Invece, inoltre, la musica di Mozart ha avuto rispetto alle altre due un effetto più importante, nel senso che tutti i valori erano, i miglioramenti erano notevolmente superiori. Quindi il pezzo usato, tra l'altro, era la Sinfonia numero 40 in Sol minore. Perciò il mio consiglio in questo periodo è Mozart a tutto volume. Sì, a tutti. Dalla musica, Daniel, passiamo al silenzio. In questi giorni, perché è importante ricercare il silenzio? Perché è un elemento di equilibrio che può davvero aiutarci ad affrontare la nostra quotidianità. Anche in questo caso ti chiedo che cosa dice la ricerca, per darci anche delle indicazioni quando e come e perché passare del tempo in silenzio. Allora, trovare, coltivare dei momenti di silenzio nel corso della giornata rappresenta un'abitudine importantissima. Ad esempio, attraverso il silenzio interiore, sviluppato durante una pratica di meditazione, come tra l'altro dimostrano svariate ricerche, tra cui uno studio di Yale del 2015, è possibile spegnere determinate aree di cervello, il cosiddetto default mode network. Queste aree rappresentano sono quelle responsabili del motore automatico interno, no? Quindi che genera idee e pensieri costantemente, che interferiscono incessantemente con ciò che stiamo facendo. E questo continuo e intenso dialogo interiore è presente per circa la metà del tempo della nostra giornata, del tempo di veglia, ed è responsabile delle preoccupazioni per il futuro, porta alla luce ricordi spiacevoli del passato, crea uno stato di ansia, di depressione, facendoci diventare delle vittime dei nostri dispendiosi processi mentali. E il silenzio mentale che si sperimenta nella meditazione può perdurare anche per un periodo di tempo successivo alla pratica meditativa, con tanti effetti positivi, ad esempio sulla chiarezza, sulla consapevolezza, sulla lucidità mentale, oltre che sul tono dell'umore e sull'equilibrio psicofisico in generale. Quindi creare, soprattutto in questi periodi di quarantena, dei momenti di silenzio meditativi, dal mio punto di vista è un'abitudine realmente importante, oltre che estremamente rigenerativa. Si può imparare a fare questo. Daniel, vuoi ricordare i tuoi appuntamenti? E io così ricordo anche i post di Daniel Lumera sulla pagina di Obiettivo Salute, ma per chi volesse meditare, Daniel, tu hai proprio degli appuntamenti. Ma ogni sera alle 19 c'è questo appuntamento gratuito dove introduciamo le persone alla meditazione proprio per la gestione di questo periodo estremamente difficile da un punto di vista emozionale, mentale e anche fisico. Il 25 di aprile c'è un appuntamento molto importante in occasione della giornata della liberazione, il sito è ioRestoAcasaEmedito.it ed è un appuntamento dove oltre 10.000 persone si riuniranno per meditare insieme. E infine una cosa che mi fa piacere ricordare è che il 3 di maggio ci sarà un appuntamento dove si approfondirà la neurofisiologia della musica e del silenzio. Ecco, questo è un po' tutto. E noi ci terremo come sempre in contatto, e poi ci sono naturalmente i post di Daniel Lumera sulla pagina di Obiettivo Salute, che sta diventando sempre più un laboratorio. Daniel, quindi il consiglio è di fermarsi più spesso ad ascoltare musica e silenzio. A volte però nel ritmo frenetico della vita ascoltiamo musica mentre facciamo tante altre attività, e quindi magari mentre cuciniamo, mentre stiamo lavorando, e ritagliarsi uno spazio di silenzio dovrebbe rientrare in quelle sane abitudini da introdurre nella nostra quotidianità. John Lennon cantava che la vita è quella cosa che accade mentre siamo impegnati a fare altri progetti. E io lo chiedo proprio a te, che pratichi da tanti anni meditazioni e coltivi il silenzio. È davvero così? Allora, mi viene in mente, c'è un famoso esperimento sociale organizzato dal quotidiano Washington Post, un esperimento che ha fatto un successo di visualizzazioni mondiali. Cosa hanno fatto? Hanno fatto suonare in incognito in una stazione della metropolitana di Washington il violinista Joshua Bell, che è uno dei più grandi musicisti al mondo. L'hanno fatto nell'ora di punta in una mattina di gennaio. Joshua Bell ha eseguito per 45 minuti nella metropolitana 6 pezzi di Bach, tra i più complessi, tra l'altro, e meravigliosi mai scritti nella storia della musica. E l'ha fatto con un violino, pensa, di 3,5 milioni di dollari, il valore di 3,5 milioni di dollari. Questo mentre nella metro passavano migliaia di persone, riuscendo a raccogliere in questi 45 minuti nella sua cassettina per le offerte, usata dai musicisti da strada, 32 dollari. E durante questo esperimento l'interesse maggiore, tra l'altro, lo hanno dimostrato i bambini, no? Che nel video sono stati poi puntualmente strattonati dai genitori per andare via di fretta. Però la cosa interessante è che al termine di questa performance, Bell raccoglie il denaro, chiude lo strumento, va via, nessun applauso, chiaramente nessun riconoscimento. E solo due giorni prima aveva fatto sold out alla Symphony Hall di Boston e chi ebbe il privilegio di ascoltarlo in quell'occasione dovette spendere $100 per un posto in platea. La mia domanda è: come è stato possibile che tra quelle migliaia di persone quasi nessuno abbia trovato un momento metropolitana per fermarsi a riconoscere il talento, ad ascoltare la miglior musica mai scritta eseguita da uno dei più grandi musicisti viventi? E quindi la grande domanda è: quali e quante bellezze, talenti ci stiamo perdendo e non siamo in grado di riconoscere quando non siamo presenti e consapevoli della vita? Allora, la meditazione, ad esempio, il silenzio servono anche a questo, a sapersi fermare, saper ascoltare la vita e se stessi e sapersi godere lo spettacolo che è in scena proprio ora, che tra l'altro è un atto unico. Grazie, grazie Daniel. E, beh, questa è anche un'occasione, questi giorni sono un'occasione per un po' fare chiarezza dentro di noi e per imparare nuove cose. Grazie a Daniel Lumera, io spero di sentirti presto e intanto lo trovate sulle pagine di Obiettivo Salute, oltre naturalmente che nei suoi canali. E strumenti, questa è un po' la parola chiave di oggi, sono anche i consigli, i suggerimenti, le indicazioni che chiediamo e riceviamo dagli amici, dai nostri familiari, dal nostro medico curante, dal nostro farmacista, che è una figura preziosa con cui è facile instaurare una relazione di fiducia e che in questo periodo particolare, sono certa, ci è stata di grande aiuto. In linea con noi abbiamo Jonathan Farronato, che è farmacista. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio. Un camice amico di cui ci fidiamo e ci affidiamo. La relazione con il nostro farmacista è sempre stata una relazione un po' speciale. Sì, diciamo che senza dubbio un ruolo fondamentale in questo momento di emergenza sanitaria. Questo perché la paura va lasciata a casa, perché la gente va data serenità, la cosa che più serve in questo momento. Il farmacista, diciamo che così facendo, ricopre un ruolo di sostegno per le tante persone che hanno le idee confuse, specialmente in questo marasma di informazioni. Ed ecco che poi la distribuzione dei medicinali, specialmente per chi soffre di patologie croniche come il diabete, l'ipertensione, ci tengo, avviene regolarmente, quindi anche due volte al giorno. Per cui il primo messaggio che voglio lanciare è quello di non avere nessun timore di rimanere senza il medicinale per proseguire la propria terapia. Ecco, questa è una buona indicazione, dottor Farronato, perché c'è un po' la tendenza, no? Come un po' al supermercato, anche in farmacia, alcune persone dicono faccio scorta. Questo è invece un'idea che, insomma, in qualche modo va assolutamente, dottor Farronato, questa è una cosa che va evitata, dottore. Assolutamente, anche per evitare che la farmacia il sovraffollamento, perché ricordiamo una delle regole che ci suggeriscono ormai da tanti giorni è proprio quello di rispettare la distanza interpersonale di almeno 2-3.5 metri, e quindi se la farmacia inizia a popolarsi di tantissime persone nello stesso momento diventa anche un po' difficile nel gestire il tutto, ecco. Dottore, io credo che questa esperienza anche le abbia insegnato anche molto nel contatto e nella relazione con le persone che arrivano in farmacia, chiedono un aiuto, un consiglio, vogliono essere rassicurate. Riesce a darci un'immagine di come è cambiata la relazione, che cosa le ha insegnato questo contatto con le persone che entrano in farmacia in cerca per l'acquisto di un farmaco, di un medicinale, ma anche per avere un po' un sostegno? Certo, diciamo che la prima cosa da essere cambiata è proprio la modalità di ritiro di medicinali in farmacia durante l'emergenza da Covid-19. Questo perché per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del coronavirus, ora è possibile ottenere dal proprio medico di base il cosiddetto numero di ricetta elettronica con cui ritirare i farmaci che sono a carico del sistema sanitario nazionale direttamente in farmacia, senza, diciamo, la copia cartacea. come si fa? Il medico può effettuare la prescrizione ed inviare al proprio paziente il numero di ricetta elettronica. E questo lo può e fare. Quindi, vedi, sì. La tecnologia come sempre ci aiuta. Dottor Farronato, io la ringrazio per essere stato con noi. C'è Filippa Aureggi, regia la parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza e in redazione. E domani ci sentiamo, sempre alle 10:30. Buona giornata.